Le ragazze di Monaco, lucciole spente, con il naso all'insù, cercano il sole tra le nuvole opache, senza colore, si raccontano piano un amore italiano. E poi mano nella mano, oh, oh, oh, si raccontano che l'amore non è paura, non è lasciarsi piano piano, che la sera non è più sera, restare soli non è strano. Io non so più dire cosa sarà quest'amore, dove ci porterà. Solamente qui negli occhi tuoi c'è qualcosa che da sempre, lo sai, da sempre mi manca. Sì, ma le ragazze di Roma bronzata ad ottobre volano leggere sui loro amori dimenticati, cuori persi per la strada. E se le vedi piangere, le vedi piangere solo per un'ora, e se ne vanno via ridendo come rondini a primavera. Ma tutto questo adesso non mi fa più male, adesso che che l'amore non è paura, non è lasciarsi piano piano, che la sera non è più sera, restare soli non è strano. Io non so